edizione. Le 6, 17 minuti e 9 secondi. Per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, innanzitutto una buona giornata da Simone Spezia e poi la notizia che troviamo in apertura praticamente di tutti i siti dei giornali esteri, che è la notizia della notte, ossia la morte del cofondatore di Apple, Steve Jobs, appunto annunciata l'1:30 ora italiana circa. Vi diamo qualche titolo per darvi un'idea, perché oggettivamente sui quotidiani stranieri, almeno sui loro siti, oggi c'è decisamente poco altro. Il New York Times dice: Steve Jobs, il visionario della Apple, muore a 56 anni. Il Washington Post, il pioniere della tecnologia Steve Jobs, muore appunto a 56 anni. Naturalmente vi viene dedicata alla morte di Jobs anche l'apertura praticamente di dei giornali economici, perché lo sappiamo, Apple era sostanzialmente o quasi l'azienda più capitalizzata del mondo, era riuscito comunque a riportarla, a portarla a questi livelli. Dunque anche il Financial Times ha questa apertura. Tra l'altro il Financial Times dedica a tutto questo un commento molto interessante, nel quale in sostanza si dice: esistono poche persone insostituibili, ebbene Steve Jobs era esattamente uno di queste, il che naturalmente fa temere per i destini futuri della Apple. Apertura dedicata anche da Wall Street Journal a questo, ovviamente, con 2, 3, 4 servizi, anche le reazioni del mondo a partire da Obama, Bloomberg, il fondatore di Facebook Zuckerberg, naturalmente Bill Gates, e aperture naturalmente dedicate anche da tutti gli altri quotidiani esteri, dagli inglesi, i francesi, come naturale anche oltre appunto anche gli spagnoli e i quotidiani, come ovvio, di tutto il mondo. Da quelli americani l'unica altra notizia che, come dire, ci sentiamo di segnalare, da quelle che abbiamo che siamo riusciti a vedere, che stanno dominando la scena, è l'abbandono definitivo di Sarah Palin, che ha deciso anche lei, dopo la decisione di Chris Christie, della quale vi abbiamo raccontato ieri, di mollare la corsa, l'eventuale corsa per la presidenza. Anche Sarah Palin ha deciso di lasciare, quindi i repubblicani si trovano tra Rick Perry e Mitt Romney. Vedremo che cosa succederà. E noi veniamo ai giornali italiani. Giornali italiani, iniziamo questa mattina dalla Repubblica, che il titolo che sceglie è dedicato a Tremonti. PDL, ultimo assedio a Tremonti. Oggi la resa dei conti sul decreto sviluppo, scrive Repubblica. Un altro attacco di Giuliano Ferrara al ministro imbroglione. E poi dichiarazione che riportano in prima pagina con forza tutti i quotidiani italiani è quella che il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto ha rilasciato ieri alla Zanzara. Sentiamolo. Se io dicessi: sono convinto che questo governo non serva a niente, che questo governo debba andare a casa, me ne vado io per primo. Dunque dovrebbe dimettersi. Io faccio un'affermazione: se io dicessi oggi questo governo deve andare a casa, è inutile che sia, devo andarmene. Cioè, la conseguenza è quella. Se lui ha detto, allora, quindi o ha detto una cosa sbagliando, ed è dura che un ministro di quella levatura, cioè poi ha corretto, oppure avrebbe dovuto prendere le conseguenze. Se non l'ha fatto, vuol dire che gli è uscita una stupidaggine, che non ha pensato bene. Insomma, Crosetto dice che Tremonti si deve dimettere. Ancora dalla Repubblica il titolo: Moody's, perché vi abbiamo declassato? Parla l'analista che ha firmato la pagella sul debito sovrano. La Merkel dice: Roma rispetti gli impegni. E poi c'è un racconto dopo la tragedia di Barletta: l'Italia del lavoro nero, io Geppino, 11 anni, tipografo, a 2 euro l'ora. Il caso, viene segnalato in prima pagina anche il caso cinese. La Cina si vendica per il Nobel per la pace assegnato l'anno scorso a Liu Xiaobo e dice stop alle importazioni di salmone norvegese. Questo dalla Repubblica. Repubblica. Il Corriere della Sera apre con il titolo forte: la linea dura sulle intercettazioni, carcere per i giornalisti e divieto di pubblicare anche i riassunti, ma quella che tecnicamente viene chiamata l'apertura, e quindi sul, come dire, sul lato sinistro, per così dire, guardando il quotidiano, è sul PDL che va all'attacco e un Tremonti assediato. Su Sviluppo e Banca Italia vertice con il Premier. Il titolo editoriale a firma di Pierluigi Battista è Il limite della decenza, e vi lasciamo immaginare quali siano i contenuti. Centropagina: l'Europa difende l'Italia, ma la Merkel avverte a rispettare gli impegni. Il piano per le banche spinge sulle borse, Milano più 3,94%, e a centropagina la foto di Alison Rhea Owens, 23 anni, guida turistica e viveva in Italia, che è stata travolta e uccisa da un pirata della strada San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Di taglio basso la vicenda di Barletta, ancora con la superstite che dice: ora chi mi dà un lavoro? Il Sole 24 Ore, l'apertura è su Berlino, che è pronta a salvare le banche. Borse europee euforiche, Milano guadagna il 3,94%, spread BTP Bund a 368, e il commento a firma di Carlo Bastasin è la svolta tedesca se la Germania parla europeo. Anche un'analisi di Isabella Bufacchi sulle prossime mosse: Spagna e Belgio tra i paesi a rischio. A centropagina invece l'analisi del Fondo Monetario Internazionale, nel titolo l'FMI che dice in Italia crescita deludente, Marcegaglia che dice decreto insufficiente, in forse i fondi per le infrastrutture. E poi anche qua naturalmente la questione delle intercettazioni e il processo a Tremonti su Sviluppo e taglio del rating, e Bossi che insiste, grilli alla Banca d'Italia. Segnaliamo anche la fotonotizia, che poi riporta un servizio che c'è all'interno: gli scioperi in Grecia contro l'austerity. C'è stato uno sciopero di 24 ore dei dipendenti pubblici. La Stampa in apertura ha il Fondo Monetario Internazionale: l'Italia è un paese con crescita deludente, servono nuove misure. Ma anche un servizio sugli indignati, per così dire, che sfilano a Wall Street, il cosiddetto gruppo di Occupy Wall Street, che ieri hanno tenuto una marcia con, dicono, 30.000 persone. E poi a centro il titolo, l'apertura vera e propria è il titolo forte sulle intercettazioni, il blitz del PDL, la Bongiorno si dimette da relatore del DDL, se passa non si saprà nulla. Centropagina, una foto con Kobe Bryant, pazzia per Kobe, una partita vale 2 milioni, offerta shock della Virtus Bologna, se il campione USA dice sì, si va in campo il 12 ottobre. Infine vi segnaliamo dal Messaggero l'apertura: il PDL contro Tremonti, decreto Sviluppo e Banca Italia vertice decisivo con Berlusconi. Vi segnaliamo anche qua il tema, uno dei temi centrali è la stretta sulle intercettazioni. Un titolo su Rudy Guédé, l'unica persona al momento in carcere per l'omicidio di Meredith Kercher, che dice: io qui in carcere e Amanda felice a casa. Anche qua un titolo poi sulla ragazza americana uccisa da un'auto pirata. E adesso cambiamo argomento e parliamo di acqua, perché oggi viene diffusa con il mensile Il Salvagente una ricerca sull'acqua dei nostri rubinetti. Buongiorno a Barbara Cataldi, che ha seguito questa ricerca e ne ha scritto. E che cosa contiene questa ricerca, Barbara? Buongiorno a tutti, abbiamo realizzato una mappatura dell'acqua di rubinetto in Italia, da analisi fatte appunto da campioni presi o alle fontanelle o al rubinetto di casa, abbiamo visto che sostanzialmente l'acqua che beviamo è buona, ma ci sono alcune criticità, cioè ci sono alcune città in cui di fatto, sono pochissime in percentuale, ma in cui di fatto l'acqua non sarebbe potabile, oppure sarebbe potabile a norma ma non ottima nella qualità dal punto di vista sanitario. Barbara, facciamo dei nomi, ci sono 5 città dove addirittura l'acqua non è bevibile, e poi ti chiederei di andare sulle grandi città, su come sono messe le grandi città. Allora, l'acqua non sarebbe bevibile ad Olbia, Marsala e Piacenza per un'eccessiva concentrazione di nitrati. Sono sostanze di origine antropica, cioè dovute sostanzialmente all'inquinamento delle falde, e superano in queste tre città il limite di norma. A Viterbo, dove invece ad essere troppo è l'arsenico, e a Mantova, dove abbiamo visto una quantità eccessiva di ioni ammonio. Invece, per quanto riguarda le grandi città, brillano Roma, dove l'acqua è quasi perfetta. Firenze ha una concentrazione di alluminio che è a norma, ma che tutto sommato, se non ci fosse, sarebbe meglio. Milano ha soltanto un difetto dovuto all'eccessiva presenza di zinco, ma la presenza di zinco, come la presenza di piombo, che invece è più alta della norma a Genova, queste due sostanze non sono legate all'acqua dell'acquedotto, ma alle tubature. E Torino ha invece come unico difetto il fatto di avere una quantità di nitrati leggermente alta, e che rende l'acqua non adatta ai neonati. Se decidessimo di non comprare l'acqua minerale, ci sono strumenti che si possono utilizzare per eliminare queste sostanze della sorta di depuratori casalinghi? Ci sono sicuramente filtri e impianti di filtraggio, ma io interverrei su questo solo quando si ha la certezza che la propria acqua non va bene, quindi con certificati alla mano, perché il sapore dell'acqua non è indicativo, ecco. L'acqua può anche avere un cattivo sapore, quindi non piacerci, ma non per questo essere insicura. Prima edizione. 6, 34 minuti e 40 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È 6 ottobre e la mattina di Radio 24 in diretta vi parla Daniele Biacchessi. I primi mesi della giunta di Cagliari sono al centro della pillola di Radio 24 Italia in controluce. Barbara D'Amico racconta i primi 100 giorni della nuova giunta guida Zedda. Questi primi 100 giorni, ormai qualche giorno in più rispetto a 100, ne abbiamo ridotto la spesa degli assessori, perché abbiamo portato da 13 a 10 assessori, mentre prima erano 13, oggi sono 10. Non c'era neanche una donna, oggi ci sono 6 donne e 4 uomini. Abbiamo ridotto le auto blu da 14, che erano, a 4. Abbiamo eliminato tutto ciò che poteva essere eliminato in termini di consulenze superflue, abbiamo risparmiato 60.000 di tessere omaggio che venivano date solo per il teatro lirico all'anno, è molto di più quello che abbiamo risparmiato rispetto a quel che si spendeva prima. I cittadini sono preoccupati per gli alti costi della vita e le difficoltà economiche da una zona come i Cagliari, che ha un tasso di disoccupazione giovanile al 54%. Per quanto riguarda il resto, non ho mai subito le pressioni che ci possono stare, ci saranno, ci sono state, semplicemente basta dire no. Parte in sordina Massimo Zedda, il giovane sindaco di Cagliari, eletto tra le fila del partito di Vendola, Sinistra, Ecologia e Libertà, durante le ultime amministrative. Classe 1976, il neo amministratore ha sostituito il vecchio governo di destra, ma sembrerebbe il portavoce di una giunta poco concreta, a detta dell'opposizione, in particolare di Giuseppe Farris, consigliere comunale del PDL. Un bilancio sicuramente fallimentare, contraddittorio, per certi versi anche sorprendente. L'introduzione di nuove tasse, anzitutto, ritroviamo tutti i temi tradizionali della sinistra, a cominciare da quelli della viabilità. Eppure le azioni intraprese fino adesso, alcune molto coraggiose, altre solo simboliche, fanno sperare bene, e a dirlo sono gli stessi cagliaritani. Il cambiamento l'ho sentito decisamente, ma anche perché era un cambiamento che stavamo aspettando, quindi c'era un grande malcontento. Beh, certo, non è che poi i risultati si possono ottenere nel tempo, in un tempo lampo. Io da cittadino mi sono sentito colpito quando il sindaco si è dimesso dalla carica di consigliere regionale, rinunciando al vitalizio. Forse è la prima volta che ho sentito una rinuncia di questo tipo da parte di un politico. Vi saluta qui Daniele Biacchessi, torniamo alle 13.30 su Radio 24. Le 6, 37 minuti e 40 secondi. E veniamo alla notizia di questa notte, la notizia di giornata, la morte del fondatore della Apple, Steve Jobs. Buongiorno a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buongiorno, buongiorno Simone. Allora, una giornata triste quella di oggi. Sì, la notizia è arrivata nella notte, dunque Steve Jobs non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, devo dire Simone, lo sapevamo, lo avevamo visto fragile, debole, ascetico allo stesso tempo, lucido e comunque pieno di energia anche nelle ultime volte che era apparso in pubblico, ma poi si è capito che questa probabilmente era l'appuntamento che non avrebbe superato, si capiva che non ce l'avrebbe fatta, lo si è capito quando ha lasciato la guida dell'app il computer, non avrebbe mai lasciato la guida dell'app il computer se non fosse stato davvero in una situazione impossibile. E dunque in qualche modo eravamo, credo, tutti preparati a questa notizia. Eppure quando poi l'abbiamo saputa ieri sera in prima serata, ora di New York, insomma, la commozione, devo dirti, è stata piuttosto grande, perché credo che per qualunque di noi Steve Jobs rappresenta tantissimo, rappresenta il sogno, rappresenta la nuova frontiera, rappresenta la visione, rappresenta il nuovo prodotto, ha cambiato il mondo, ha cambiato la società, ha introdotto i personal computers. Noi dimentichiamo forse che cosa ha fatto Steve Jobs, eppure oggi che è morto lo ricordiamo nel dettaglio e ci accorgiamo che ci ha lasciato un grande genio dell'umanità. Oggi l'app, il computer è la società che capitalizza di più in America, oltre 300 miliardi di dollari, e quindi è la prima società per capitalizzazione americana non petrolifera. Credo che la Exxon forse faccia qualche cosa in più, però ecco, è un successo straordinario, quindi Mario, inevitabile e irripetibile. Quindi Mario, a fianco del genio anche una pazzesca capacità di creare valore aziendale. Di creare valore aziendale, di tenere insieme la gente, di trasmettere la passione, l'energia, tutti quelli che hanno lavorato con lui. Io poi l'ho incontrato varie volte, l'ultima volta l'ho incontrato un paio d'anni fa, ecco, devo dire, era un uomo sempre straordinariamente incuriosito, vivace, interessato, nel momento in cui ci si vedeva in poltrona, questo succedeva in California, succedeva durante una delle digital conference con Walt Mossberg, lui era sempre straordinariamente curioso, ogni giorno era per lui un giorno importante, ogni occasione era un'occasione per guardare in avanti e non per guardare indietro, o addirittura, volendo esagerare, neanche per guardare al presente, se vogliamo. E c'è una cosa, le televisioni americane naturalmente quasi sono bloccate, sono paralizzate, hanno cominciato a trasmettere fiumi di immagini, di parole, ricordi, Steve Jobs giovanissimo, Steve Jobs che è così da ragazzino, aveva 20 anni, 21 anni quando ha fatto il primo computer nel garage, lasciò il college e davano fra le altre cose un discorso del 2005 quando parlò del suo cancro alla Stanford University e parlava ai giovani, sono questi discorsi, aveva questa toga da grande professore e faceva il discorso di fine d'anno dei ragazzi, parlava ai ragazzi che si laureavano e a un certo punto parlava del suo cancro e disse di aver vinto la battaglia contro il cancro, perché già allora era stato operato, era in buona forma ed era molto sicuro di sé, disse ho vinto la battaglia, guardo al futuro, dice, ho imparato che la morte è un agente di cambiamento, ho imparato a capire che cos'è la morte, in fondo anche l'importanza della morte, diede un messaggio a questi ragazzi, ricordatevi, gli dissi che il vostro tempo è illimitato, non vivetelo in funzione degli altri, vivetelo sempre in pieno, che poi è la filosofia della sua vita e credo sia la filosofia che dovremmo tutti noi fare nostra. Ringraziamo Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, e sentiamo proprio in lingua originale un passaggio di quel mitico discorso di Jobs alla Stanford University. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. It made an impression on me. And since then, for the past 33 years, quando avevo 17 anni lessi una citazione che suonava più o meno così, dice Jobs: se vivrai ogni giorno come se fosse l'ultimo, sicuramente una volta avrai ragione. Quindi si chiede: se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi? Ogni qualvolta la risposta è no, per troppi giorni di fila capisco che c'è qualcosa che deve essere cambiato. E prosegue parlando ai ragazzi, dicendogli: ricordarsi che morirò presto è il più importante strumento che io abbia mai incontrato per fare le grandi scelte nella vita. Ricordarsi che dobbiamo morire è il modo migliore che io conosca per evitare di cadere nella trappola di chi pensa che avete qualcosa da perdere. Siete già nudi, non c'è ragione per non seguire il vostro cuore. Allora, noi chiudiamo qua questa pagina dedicata a Steve Jobs. Adesso andiamo, abbiamo una breve pausa, abbiamo la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di calcio perché tanto stanno facendo discutere le parole di Ibrahimovic, insomma sono stanco di giocare a calcio. Che avrà voluto dire? Ci sono i quattrini sotto o è finalmente il gesto umano di un giocatore che dal quale non ce lo si aspettava? Saluto intanto Dario Ceccarelli che ci ha raggiunto in studio. Ciao, già Simone, sì, Dario, buongiorno. Prima edizione. Le 6:46 minuti e 23 secondi. Parliamo adesso di calcio e di Zlatan Ibrahimovic. Innanzitutto contestualizziamo, perché sennò poi insomma è come con le intercettazioni estrapolate. Allora, durante un ritiro in Svezia con la nazionale, dice, intervistato, dice: mi dispiace dirlo, ma non ho la stessa grinta che avevo prima e mi divertivo di più alcuni anni fa. Oggi è diventato tutto routine. Prima il calcio era tutto per me, non pensavo ad altro e certe volte non andavo nemmeno a scuola per giocare, adesso non più, mi interessano altre cose. Che alla fine, Dario Ceccarelli, sono parole che sul nostro posto di lavoro potremmo dire tutti quanti. Sì, anche noi soffriamo un po' di routine anche stamattina. Eccoci qua di nuovo. Però va detto, ci sono due modi di leggere questo sfogo di Ibrahimovic. Da un lato appunto è questo, quello di anche di dire: sì, chi va in miniera ha diritto di avere i malesseri da routine e non guadagna 9 milioni di euro all'anno, ecco. Però forse proviamo anche a cercare di essere, allargare lo sguardo e magari di vedere così che c'è un effettivo mal di pancia in questo giocatore che ha una storia esistenziale anche particolare. Lui è un incrocio di razze, croato, bosniaco, svedese, cresciuto nel ghetto di Malmore. È uno che, chiamato lo zingaro, negli stadi non fanno altro che dirgli zingaro, zingaro. Lui, anzi, più glielo dicono più ci prende gusto. E in effetti la sua biografia è di tante squadre continuamente cambiate, dovunque è andato ha vinto degli scudetti, ed è soprattutto così associato anche a questo suo monetizzare il tutto, perché non è certo il giocatore bandiera. Però, magari dietro a questi atteggiamenti spavaldi, da uomo che se ne frega, sempre pronto anche a menare le mani, diciamo la verità, forse c'è anche così una sensibilità invece più fragile, nel senso che viene dalla sconfitta con la Juve, da un infortunio, 30 anni, magari. Cioè, può darsi che alcune certezze si siano un po' sgretolate. Infatti Galliani è già lì che si agita moltissimo. L'altra versione è quella che semplicemente, se esce la sua biografia, magari al Milan si è stufato e sta cercando di ricreare un caso attorno a se stesso. Magari di tirare dentro qualche altro quattrino, qualche altro contratto. A proposito di ragazzi cattivi, Dario, oggi c'è una vicenda, perché poi abbiamo parlato del ritiro della nazionale svedese, in realtà c'è anche la nostra che alle prese, a quanto pare come emergenza attacco notevole, e poi c'è il ragazzo cattivo Cassano che fa sentire la sua voce. Sì, Cassano è incredibile, riesce sempre a trovare qualche argomento per farci discutere. Questa volta se l'è presa con un cronista del Corriere dello Sport, mi sembra, perché stava al bar dove andava lui, no? E questo gli dava fastidio. e naturalmente Prandelli lo ha ripreso immediatamente, perché c'è un codice etico della nazionale, e tra l'altro adesso diciamo anche la verità, Cassano, vabbè, ha un po' stancato anche con tutti questi atteggiamenti capricciosi da subretta, anche perché i risultati si vedono e non si vedono. Milan ha un po' sopportato, ogni tanto inventa una, però in nazionale non ha ancora compiuto. L'altro presunto cattivo ragazzo, Balotelli, sta male per una discopatia, e l'altro caso su cui ti chiedo brevemente di dirci qualcosa è questa convocazione per un oriundo, Osvaldo, giocatore della Roma, che arriva e che non è che piaccia un granché l'arrivo di un altro oriundo. Sì, non piace, diciamo, a una componente politica, la Lega, che non avendo altri problemi di cui interessarsi in questo momento si mette a parlare della nazionale di calcio. Tutto sommato, io queste invasioni della politica le terrei veramente fuori, perché non è il momento. Però Pablo Osvaldo è un giocatore di tutto rispetto, tra l'altro alla Roma sta facendo benissimo, ha fatto 3 gol di fila uno dietro l'altro in 3 settimane, e poi soprattutto è un giocatore di talento, è una delle novità che sta emergendo. Lui alla Fiorentina aveva già fatto vedere lampi della sua classe, però sembrava uno di quei talenti incompiuti, e adesso Prandelli l'ha riportato. Vedremo, oriundo eppure della Roma, per i leghisti fumo negli occhi. Grazie Dario Ceccarelli, grazie. Buona giornata. Con Alessandro Milan, qualche anticipazione. Buongiorno Alessandro. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, che cosa... Ma ti regalo questa storia che è descritta dal giornale. Secondo un deputato inglese, una deputata per la verità, molti suoi colleghi vengono in Parlamento talmente ubriachi che non sanno neanche quando varcano la porta del Parlamento. Cosa ridi? Sanno neanche cosa vanno a votare. Insomma, sono too drunk to stand, cioè non riescono neanche, barcollano, e poi noi ci lamentiamo del nostro Parlamento. Ma pare che ci siano degli ubriaconi anche agli OSA che vanno a votare al Parlamento in Gran Bretagna. 10 secondi per qualcos'altro. No, vabbè, ovviamente ci sono tante altre notizie, una di politica così curiosa. C'è Brunetta che continua a scrive lettere. Caro Giulio, non mi hai ancora risposto, ti invito a rispondere. Pare che alla decima lettera istituzionale Giulio Tremonti abbia risposto con 5 lettere contemporaneamente, il cui contenuto per ora è sconosciuto, ma temo tantissimo. Temiamo tutti. Temo per Brunetta. Per Brunetta. Grazie anche ad Alessandro Milan. Un ringraziamento a Laura Faggin in redazione, Peter Bescapè in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo tra poco con il giornale radio.